Diritti e rovesci, in collaborazione con Adico, Associazione Difesa Consumatori. In attesa di avere nelle prossime settimane dettagli più precisi sulla TASI che pagheremo tutti, intanto il governo, come sapete, ha deciso le aliquote a cui possono arrivare i comuni, parliamo di canoni d'affitto, una vicenda che parte da Venezia, centro storico, dalla zona di Castello. Ben trovato al presidente dell'Adico Carlo Garofolini, ciao Carlo. Ciao amico e un saluto a tutti gli ascoltatori. Allora, parliamo di case Ater, nello specifico di questi edifici appunto a Venezia, in centro storico, nel sestiere di Castello. Cos'era successo? Una vicenda a cui si sono rivolte parecchie famiglie, che sembra comunque interessare almeno 30-40 condomini, di cui pochi giorni fa si sono rivolti allo sportello che l'Adico ha messo in funzione gratuitamente tutte le persone che riguarda le problematiche di sfratti di condominio, di cui ho visto come protagonista delle famiglie che abitano sull'Ater di Castello e che improvvisamente, dopo 4 anni di solleciti, si sono visti recapitare un bollettino con 4 anni di arretrati per importi superiori ai 12.000 euro, di cui queste persone si sono subito allarmate, perché pagare non ho detto sì, ma certamente non sono in grado di poter far fronte una somma del genere, oltretutto maggiorata anche di interessi, di oneri e quant'altro. Per cui in questo senso abbiamo deciso di dare informazione, anche perché il nostro scopo è quello sì di mettere in condizioni le persone di pagare, ma anche di capire cosa sia successo e come mai, insomma, le persone si sono trovate in questa condizione di indigenza, soprattutto per effetto di questi importi che in questo momento non sono in grado di poter sostenere. Loro si sono trovati a essere morosi praticamente senza saperlo. Sì, queste persone hanno sempre pagato regolarmente l'affitto. Fin tanto un bel giorno è capitato che alla scadenza del contratto d'affitto l'Ater non gliel'ha rinnovato. Questi inquilini in varie riprese, in tutte le maniere, hanno cercato di sollecitare il rinnovo del contratto, perché, ripeto, sono persone che hanno sempre stato in regola con i pagamenti, con la caparra, con anche le cauzioni previste del contratto, eccetera. Ma diciamo che per ragioni interne all'Ater, questi inquilini si sono visti rinviare il rinnovo del contratto, a tal punto che sono passati 4 anni e un bel giorno gli sono capitati esattamente 12.000 euro di interessi da pagare, di importi arretrati da pagare entro 20 giorni per effetto di un rinnovo che è tardato ad arrivare, di che queste persone allora subito disperate, perché comunque non erano in grado di poter far fronte a questo importo, si sono rivolte all'Adico cercando di trovare una soluzione che permetta loro di rientrare serenamente e far fronte a questa richiesta. 12.000 euro in 4 anni sono più o meno 3.000 euro all'anno di aumento del canone, perché di fatto si trattava di aumento del canone, solo che non era stato comunicato. Sì, la faccenda si è articolata proprio così, ma è anche vero che poi a rinnovo è previsto un aumento di ulteriori 100 euro rispetto a quello che già pagano, e anche questo ha creato non ben pochi disagi agli inquilini. Ma è anche altrettanto incredibile come, considerato anche la tipologia dell'utenza che alloggia in questi condomini, poter mandare un importo da oltre 12.000 euro e dal tempo 20 giorni per poterlo pagare, bisogna anche mettersi un po' nella condizione che forse qualcuno può essere anche in difficoltà a far fronte a una cifra del genere dopo un po' di tempo. Queste persone comunque, ripeto, hanno tutta l'intenzione di pagare, hanno chiesto di poterlo fare individuando un piano di rientro che possa permettere loro di sostenere questo importo, anche perché poi ci troviamo persone che prendono 600-700 euro di redditi e si trovano a pagare 400 euro di affitto più di 300 euro di arretrati più il rinnovo del contratto altri 100 euro, questi matematicamente non ce la possono proprio fare. Per cui il nostro intervento è volto intanto a scorporare quelli sono gli interessi, gli oneri richiesti e a sollecitare l'Ater affinché possano incontrare l'Adico e trovare una soluzione che permetta in maniera più comoda e non certamente in 20 giorni a poter mettere in condizione le persone a soddisfare quelle che sono, insomma, la loro posizione nei confronti dell'ente. Questa è l'Ater di Venezia, il sestiere di Castello, questo gruppo di una trentina di famiglie, come dicevi, potrebbe essere che si verifichino altri casi altrove? Ma noi casi non solo colate, ma problematiche dei condomini sicuramente ne abbiamo tantissime all'Adico, anzi addirittura devo dire che da quando abbiamo istituito lo sportello circa 6 mesi fa, denominato sfratti e condomini, le problematiche e tipo la quantità di utenza di persone che si sono rivolte a noi sono veramente tantissime, nell'ordine veramente di qualche centinaia. Certamente avevamo anche iniziato a fare un primo censimento di quali erano le tipologie più frequenti per quanto riguarda la casistica, e non abbiamo ancora un dato ufficiale, però quelli che vanno per la maggiore normalmente riguardano proprio i problemi di muffa per quanto concerne gli appartamenti e le case di nuova realizzazione, ed è un'area di interesse veramente che ha suscitato grandissimo partecipazione da parte degli utenti. Mentre un'altra problematica che si è molto diffusa e che stiamo veramente cercando anche di capire come intervenire sono proprio i rapporti che molti condomini hanno nei confronti con gli amministratori condominiali, perché a di loro ci troviamo veramente a molte persone che si rivolgono all'Adico perché non c'è una sufficiente trasparenza su quelli che guardano i bilanci e la ripartizione con cui vengono gestiti queste richieste di denaro, e poi tanti altri problemi che hanno a che fare anche con la convivenza e le ripartizioni delle spese su lavori di manutenzione straordinaria, e soprattutto ecco quelle che sono un po' problematiche legate un po' anche alla convivenza e alle semplici regole condominiali. Vita ordinaria di condominio, possiamo dire, insomma, per chi di noi ne ha esperienza, grande o piccola, sono vicende praticamente all'ordine del giorno, addirittura all'ordine dell'ora. Dunque i problemi sono tanti e c'è questo sportello, ricordiamo il sito associazionedifesaconsumatori.it, oltre allo sportello fisico che è in via Volturno a Mestre. Ci ritroviamo con l'Adico tra un paio di giorni per parlare, ahimè, di disoccupazione. Grazie intanto al presidente Carlo Garofolini e buon proseguimento. Grazie a te Mirko e un saluto a tutti gli ascoltatori. Diritti e rovesci, in collaborazione con Adico, Associazione Difesa Consumatori. Per riascoltare questo programma vai su bluradioveneto.it.